canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Natalino, ci sei? Natalino? Natalino, ci sei in ascolto? Niente, comunque vanno bene tutte e due, ultime tutte e due, va, tutte e due mi cruci. Grazie, dai. Piano, piano, uno per volta. Ah? Chi è che non sta uscendo? Sì. Canale 10, c'è qualcuno qua in ascolto?